il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Un'idea, un sogno, una filosofia di vita. Queste sono le parole che trova scritte chi visita il sito internet di un'originale cantina padovana dal nome che è tutto un programma, il Moralizzatore. Un'azienda che nasce dal progetto e diremo dal coraggio di due amici che col vino non c'entravano nulla se non per la passione per questa bevanda di Bacco. Uno infatti fa il veterinario e l'altro di primo lavoro il farmacista. Il loro vino nasce come, detto da loro, dovrebbe essere un buon vino, naturale e rispettoso delle caratteristiche della pianta e del terreno, della natura insomma, senza utilizzo di prodotti chimici nelle operazioni di cantina. Ma più che parlare delle tecniche utilizzate, a noi ha incuriosito la storia di questa giovane cantina. Abbiamo oggi con noi al quadrifoglio Enrico Frisone, contitolare con Andrea Dalla Grana di questo esperimento. Benvenuto in trasmissione. Grazie, grazie. Chi è il veterinario e chi è il farmacista dei due? Allora, io sono il veterinario, Andrea, il mio socio, invece è il farmacista. E queste sono le vostre prime professioni, quindi ancora certamente, oggi? Certamente. Però, appassionati di vino, qualche anno fa, due amici, avete deciso di fare qualche cosa, di fare il vino come piace a voi, forse. Com'è nata questa idea? È nata fondamentalmente da una gran passione che ci accomunava da molti anni, fin dai primissimi anni dell'università a Padova, e si assaggiava vino, ma si assaggiava per capirne l'essenza reale e quindi anche come poi farlo veramente, e questo ci ha portato negli anni a conoscere molti molti produttori, andare a trovarli, andare ad aiutarli a crearci un piccolo bagaglio, e nel 2011 questa cosa è, tra virgolette, ci ha si è aperta una porta e siamo entrati, abbiamo deciso di provare a farlo con le nostre mani e vedere cosa succedeva. Quindi voi avete acquisito dei terreni, tra l'altro voi siete dell'Alta Padovana come zona, però avete i vigneti nei Colliberi? Sì, esattamente, nelle colline di Breganze, attorno Mason Vicentino, Fara Vicentino. E i vigneti non sono di nostra proprietà, perché noi affittiamo dei fondi rustici, e però li affittiamo a ragion veduta, cercando le varietà autoctone, cercando le esposizioni migliori e possibilmente anche i vigneti vecchi tenuti bene, che è la cosa, è il patrimonio che abbiamo noi qua nella nostra zona, ecco. E quindi la Vespaiola, il Groppello, le varietà nostre che ci possono differenziare, diciamo, dagli altri. Quindi le avete trovate già piantate in questi terreni? Sì. Abbiamo vigneti che hanno parti di vigneti che hanno anche 50 anni di Vespaiola. E se voi fate un altro lavoro, chi li segue questi vigneti? Seguiamo noi. Noi abbiamo fatto una scelta. Io sono libero professionista e quindi bene o male mi gestisco il tempo un po' come reputo opportuno. Andrea ha scelto un part time in farmacia e quindi ha mezza giornata libera, e noi mezza giornata ci dedichiamo ai nostri primi lavori e mezza giornata siamo in vigneto tutti i giorni. Quindi fate tutto, dalla potatura poi tutto. E il vino invece chi lo fa? Il vino lo facciamo anche noi. Abbiamo ristrutturato una vecchia casa e l'abbiamo fatto diventare una cantina a norma, e ci dedichiamo anche alle fasi ovviamente di lavorazione del prodotto, della materia prima, quindi dell'uva, in trasformazione in vino. La cantina ha sede a Galliera Veneta e ci occupiamo noi anche di quello, ecco, quindi è un 360 gradi con le nostre mani. Ecco, non ci si improvvisa, immagino, insomma, viticoltori. No. Avete fatto un corso dove avete fatto esperienza in qualche modo? Allora, guarda, la nostra esperienza è stata un'esperienza di anni, empirica, come ti dicevo prima, di esperienze indirette e dirette anche. E poi ci siamo messi con rischio anche di sbagliare, abbiamo chiesto anche, ovviamente i dubbi sono mille quando si fa questo lavoro, quindi Abbiamo anche chiesto informazioni al momento opportuno e negli anni abbiamo acquisito un bagaglio che ora ci permette di vinificare, di lavorare le piante e di vinificare la materia prima autonomamente a 360 gradi. Perfetto. Abbiamo seguito anche dei corsi, ovviamente, corsi di potatura, principalmente perché ci sono delle nuove tecniche di potatura orientate al benessere della pianta e alla longevità della pianta, cosa che purtroppo qua dalle nostre parti si fa un po' fatica a far capire alla gente. Ok, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. What you came here torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di una particolare esperienza, di una cantina nata dall'idea di due amici. Abbiamo con noi Enrico Frisone, uno dei due soci, e volevamo un po' capire come è nata questa idea, nel senso che pensavo che molte persone, molti giovani che ho visto oggi che vogliono mettersi in proprio nel settore un po' della produzione di sostanze, tra virgolette, alcoliche, scelgono di fare il birraio, forse perché è più semplice, non serve avere un campo da coltivare, ci sono dei prodotti, richiede anche investimenti minori. Voi invece avete scelto di fare tutto dal campo alla tavola. Certo, certo, è una strada sicuramente più complicata. È un lavoro più duro, in certi casi addirittura quando si parla di biodinamica è un lavoro eroico, posso assicurarlo. Non c'è l'utilizzo della chimica, quindi si fa tutto manualmente, dalle potature verdi alle potature alle vendemmie, ma anche ai lavori del terreno, quindi allo sfalcio dell'erba. Non si utilizzano diserbi, si utilizzano i decespugliatori, i buoni vecchi decespugliatori o le falci come una volta, e quindi è un lavoro sicuramente molto più duro, e che però porta un risultato, diciamo, importante, perché chi conosce il vino naturale sa che si parla di una bevanda, tra virgolette, completamente diversa dai vini convenzionali. Ecco, cos'è questa diversità? Perché qualcuno si chiede il vino bio, addirittura vino biodinamico, sì, rispetto al vino che si trova normalmente. Se si può riconoscere anche al palato la differenza tra questi vini? Sì, si può riconoscere. Diciamo, palati un pelino più esperti, parlati un pochino più esperti possono riconoscerlo, e le differenze sono tante, diciamo molto lunghe anche da spiegare, però tra le prime la mancanza di conservanti come il metabisolfito di potassio danno libertà espressiva al vino e ti danno anche non ti danno il famoso mal di testa, diciamo il cerchio alla testa, ok? Quindi il conservante è una delle prime cose che viene eliminata nella produzione di vini naturali, e poi per poi aggiungere tante altre cose, dai lieviti che non sono selezionati ma sono lieviti indigeni presenti sull'uva, quindi le fermentazioni sono spontanee, i vini non vengono filtrati. Consideriamo che ad ogni filtrazione è come una donna che si spoglia, ogni volta che filtri il vino togli un indumento. E quindi anche quello che ti resta in bocca poi, il gusto finale, è completamente diverso. È tutta una filosofia, è molto complicato, ma invito gli ascoltatori ad approcciare questo mondo del bere naturale, ecco, che è un bere sano. C'è richiesta? Voi i vostri vini, ad esempio, dove li vendete a chi li acquistano? Non li fate solo, sì, per voi, immagino? No. Noi quest'anno, siamo nel 2016, siamo arrivati a produrre 12.500 bottiglie, che sicuramente sono numeri piccoli per i grossi imprenditori del vino, convenzionale ovviamente, che per noi però è un numero grande. Siamo partiti da 1.500 bottiglie nel 2011, quindi siamo già cresciuti un pochino in 6 anni. Abbiamo un mercato che all'incirca un 50% del nostro mercato è un mercato Italia. Abbiamo una distribuzione, Arche Distribuzione, che distribuisce il nostro vino in tutta Italia, e poi abbiamo un'esportazione, quindi abbiamo degli importatori che ci comprano il vino, principalmente Giappone, Polonia, noi e Australia, ma ci sono moltissime altre realtà, quindi appena nati già distribuiti un po' in varie parti del mondo. Ultima, sì, cosa, so che voi sarete presenti fra poche settimane al Binnatur, sì, e a Cerea, mi pare. Sì, a Sarego. No, a Sarego, provincia, sì, di Vicenza, sì. Sì. E, dove avrete uno stand e lì ci, certo, potrà assaggiarvi. Binnatur è una manifestazione proprio che raccoglie produttori di vini, tra virgolette, naturali. Esattamente. È una manifestazione che ogni anno si svolge appunto a Villa Favorita, Sarego di Montebello, Monticello di Ferrara, sì, comunque siamo uscita a Montebello, strada A4, e ci sono più di 130 produttori appartenenti a questa associazione che faranno parte della manifestazione, produttori da tutta Europa e tutti accomunati da questo modo di fare vino, e noi avremo il nostro piccolo angoletto con il nostro stand. e faremo assaggiare i nostri vini, quindi chi fosse interessato è invitato a venire. Allora, chi è interessato può cercare su internet Vinnatura Villa Favorita, sì, per andare a trovarli, oppure il sito che deve essere il moralizzatore, www.ilmoralizzatore.it, dove avere informazioni. Grazie. Grazie a te, Emanuele. E auguri per la vostra attività. Grazie. E concludiamo con un paio di brevi notizie. La Commissione europea ha pubblicato un rapporto sull'attuazione dei programmi di apicoltura nazionali che beneficiano di 33 milioni di euro ogni anno dal bilancio dell'Unione. Nel periodo 2013-2015 il numero di alveari presenti negli Stati membri è salito a 15,7 milioni di unità, ovvero un 12% circa in più rispetto al biennio precedente. Purtroppo però è calato del 4% il numero degli apicoltori, perché devono affrontare sempre maggiori sfide per preservare la loro produzione, a partire dall'aumento dei costi, la forte concorrenza delle importazioni a basso costo dai paesi terzi, la perdita di colonie di api, le malattie, gli aggressori degli alveari e il degrado dell'ambiente. Una farina recuperata da un grano antico grazie alla passione e alla dedizione di un giovane imprenditore agricolo padovano. È questa Timilius, la farina riportata in auge in questi anni da Andrea Zambon grazie alla sua coltivazione del grano Timilia, ricco di proteine, vitamine, fibre e con pochissimo glutine. Un prodotto che viene lavorato come si conviene chi ha una storia che viene così da lontano, ovvero la macinazione solo a pietra. Questa farina era già nota tra gli addetti ai lavori appassionati da qualche anno, ora però è stata presentata anche ai ristoratori come ingrediente base per una pizza tutta a chilometri zero o quasi, dal sapore anche diverso da quello classico della pizza. Una nuova proposta che è stata presentata per esempio con una lievitazione a 48 ore di maturazione naturale solo a pasta madre, farina del consorzio agrario del nord-est, farina due passi, e come farcitura altri prodotti a chilometro zero, la casatella trevigiana DOP e il montasio DOP. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.